Guarda, io sono andato da Germania perché qui non c'è lo lavoro, non posso affittare, non posso vivere per niente, non posso studiare. Mi piace studiare, mi piace lavorare, niente, no? O poi quando è andata in Germania, ha detto ce l'hai il documento in Italia, asilo politico, devi tornare in Italia. Tornato, non posso affittare la casa, io vivo qui perché non c'ho un lavoro con contratto, un lavoro giusto per sempre. Allora, che come faccio? Adesso mi è andata via a stare in strada, no? Tu come fai? Lo siamo questo, non ti fa, però tu non ce l'hai un lavoro contratto. Anche perché come rifugiati non potete lavorare. Io ce l'ho rifugiati. Potete lavorare? Sì, certo, deve essere, però non c'è lavoro, anche quanto vai, lo sai, proprio quest'anno in Italia. Quanto è un'agenzia per cercare lavoro? Dicono nera, non mi piace non lavorare a casa nostra nera. Un'agenzia interinale? Quante agenzie in Roma dicono così, lo sai? Allora noi come facciamo? Questa è la vita sempre. Lo sai, in Africa anche non ti fa così, è schifo. Guarda quelle bambine 5 giorni, senza avere, senza uscire fuori, senza aria, senza sole. Guarda, le bambine fanno in giro a testa, anche noi donne. 5 giorni senza un donna. Lascia 5 giorni, anche tu quanto vai, alzi la mattina, dove vai a bagno, no? Noi invece 5 giorni siamo, facciamo i pipi la strada, questa è la vita, dici tu. Com'è avvenuto lo sgombero quando sono, chi è entrato dentro, cioè, il 19 agosto? Entrati da soli. No, è entrata la polizia, è entrata... Quanto, la propria... qua è sabato? Sì, sabato? Guarda, sabato alle 4 della mattina, noi siamo dormiti tutti. Entrato con sopra 8 piano, noi siamo dormiti fino alle 6, stanno giù tutti, tutti polizia, tantissimo polizia, questo tutti piazza piena di polizia, noi ancora siamo, io sabato, quando ho alzato alle 6 mattina, devi andare in chiesa per pregare, ce n'è appena di polizia, ma dite che c'è, basta, state qui 4 anni senza pagare niente, deve andare via, dove va andare via, con la storia, anche in strada, che mi interessa a me? Anche vai vivi in strada, questo basta, deve uscire oggi tutti. Ha detto no, come mai? Ho benvenuta, guarda anche non c'è un vestito. Non me l'hanno fatto prendere niente. Mi ha detto, vai in postura qua. Loro mi hanno preso l'autobus qui dentro, è venuto l'autobus, con l'autobus tutti siamo andati in postura. Andato in postura tutti i giorni, siamo soli, non fanno niente. Poi stasera mi ha detto vai via dove è stato primo. Allora, sei andata in questura, dalla questura abbiamo identificato, sì. E poi abbiamo detto ritornate dove qui a piazza, in piazza Indipendenza. Sì, ho poi tornato qui, siamo a strada fino adesso, non fanno niente, tu c'è l'asilo bodaticco, dove vai, come facciamo, viviamo noi? Noi, anche i padroni, anche il cane c'è la padroni, noi invece niente. Come mai questa cosa? Io non capisco per niente, come mai? Noi come loro vivono, anche noi deve vivere, no, noi non serve sposare, non serve le a casa, non serve studiare, non serve lavorare, tutti, no? Invece noi zero, per niente. Tu da dove vieni? Eritrea. Quanti anni hai? 30. E come sei venuta in Italia? In barca, da Vivia. Quanti anni hai? In Italia da 2010. Sette anni io senza faida in Italia, nella vita sempre, tu ti trovi il lavoro sei mesi, otto mesi fai, sei ferma, allora come fai contratto a casa? Noi lo siamo, non ti fa così, vero? Dove va? Dormiamo in strada? Non ti può, è così. E com'è stato il viaggio dall'Eritrea all'Italia? In barca. Però come, cioè... pesante, brutto. Lo so, proprio brutto, però adesso, per quest'ora, questo, la vita questo è proprio brutto, da primo. È più brutto qua. Lo sai, io quando venivo in Libia, sono cristiano noi, in Libia è musulmano, vogliono massare noi, anche in Sudan musulmano, vogliono massare cristiano. Questo tutto guerra abbastanza venuto qui, invece qui di più. Invece qui in Italia di più. Per me di più guerra questo. Perché Papa Francesco non vede a me? Noi sono cristiani, tutti siamo in strada. Perché non vieni vedi a noi? Perché? Lui quanto in arabo fanno qualcosa vai vedi, perché i colori bianchi? Non ti fa, vero? Un giorno c'è Dio, per tutti vedi. Che cosa vi ha proposto adesso la questura? State qui, vi ha proposto niente, delle... Niente, non mi ha detto niente. Niente. niente adesso. Guarda, donna, 5 giorni con questo caldo. Anche la notte quando dormiamo, c'è ne arabo, tutti bevono. Quando dormiamo vino, bisogna donnino. Guarda, la notte noi non dormiamo per niente, sempre stiamo così. Perché se ne tante persone vivono, vengono la notte da noi. Sembra la notte, guerra qui. Quanto vedi? Siete più sposte, no? Perché come donne dico, sì, vengono, vengono a dormire con noi. Chi? Quelli, quelli dove la, quante vieni mezzanotte all'una? Ce ne tante guerra qui. Quello dormi in strada Termini, ah. Quelli loro vivono, dormi, vivono in strada. Da notte vieni da noi qui. E vi danno fastidio. Sì, proprio. E questa è la vita. Perché Babbo Francesco, lui, una brava persona, io Babbo Francesco, lo so, lui è bravo, perché a noi, lui vede sempre in televisione, in giornale, perché lo, non vede anche un minuto per vedere questa è la vita da noi, perché? E l'arabo che fanno in questo mondo? In Germania fanno bruciare, tutto il mondo fanno morire, invece noi sempre calma, noi sempre cerchiamo lavoro, cerchiamo buona cosa della vita, mai fatto con un persona, non mazziamo, non viviamo, noi sempre cerchiamo una cosa giusta. Quando sei arrivata in Italia ti hanno mandato in Germania? No. No. Io quando venivo in Italia prima, 2 anni fa, non ho trovato un lavoro. Io prima mi piace studiare italiano. Non ho trovato forza per studiare. Dopo 2 anni, sempre lavoro poco. Quindi la mia vita non cambia niente. 2 anni. Io pensavo dove cambiare questo, dove lasciare italiano, Italia, perché non c'era niente, non sono aiutare, io stai solo qui. Allora sono andato, quando è andato l'hai fatto a mano, ha detto tu c'hai asilo politico in Italia, devi tornare in Italia, non ti danno documento. Ho subito io tornato, guarda quando è tornato io stai qui vivo, perché non c'ero soldi, non c'ho la famiglia, mi aiutiamo. Come faccio? La tua famiglia è in Eritrea. È Eritrea? Sì. Tu chi hai? Qualche... Io abito sola qui. Non hai paesani? Paesano, tutti questi sono i miei paesani. Noi siamo tutti in Eritrea. È così. Questa è la vita. Guarda, noi adesso mangiamo tutto il giorno senza lavare anche la mano. Questo è una malattia. Certo. Una malattia questa. Guarda, tutto il giorno stai con tante gente, molto malattia. Però c'è sempre a Dio. Dio credo, Madonna mi aiuta, mi sembra vicino. Aiutali tu che intanto che in terra ci sei tu. È stato rimanete qui? Sì. Dove? Non c'è. Dove vai questa persona? Dove vai? Anche quando vai con amici 2 giorni o fino a 1 settimana, va bene. Tu dopo 1 settimana dove vai? Quanto tu ce l'hai lavoro, quanto ce l'hai soldi, devi affittare anche con amici, no? Noi come facciamo? Mamma mia, io non lo so, perché prima dicono 2 mesi, 3 mesi prima, devi uscire, devi sistemare, devi parlare. Senza parlare loro uscito e mi scobbato tutto fuori così. Come Mondesia. Ma hanno fatto prendere le cose da dentro niente. L'occupazione? Niente. No, no. L'hanno sequestrato tutti i vostri sì. averi? 4 no, anni? No, no, sì. Quanto loro venuto alle 4, fino alle 7? Ha detto uscire fuori, deve stare fuori via, no? 8 piano 8, 7 piano 7, deve fermare, deve stai. E 6, così, tutti dove stanno ferma. Fuori da fuori radio, guarda i bambini dalla stessa mattina fino alle 1 stanno fuori, senza mangiare, senza vivere. E poi alle 1 mi ha detto vai via fuori, alle 1 di mezzogiorno così, devo uscire fuori, uscite dove? Costura, ce n'è a casa pronta, devi andare a costura, quante loro andate alla costura? Non ce n'è niente, tutti i giorni siamo al sole. Allora costruire non ne aiuta, e comuni non ne aiuta, chi mi aiuta a noi? Per forza questo, lo sai, per forza, mi ha detto per forza devi fare. Devi stare in Italia? Sì. Perché ti hanno dato il rifugiato qua. È così.